se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Ma come si fa a ascoltare una persona così di prima mattina? Ma chiuditi a casa e statene a casa! A fare propaganda, cioè se tu fai una vetrina con su scritto "Viva il duce del fascismo" e sotto c'è il busto, la fotografia, quello che ti pare, è ovvio che stai facendo propaganda. Io penso che noi dobbiamo evitare che i nostri ragazzi di oggi abbiano cattivi maestri. È una visita politica? No, è una visita a sostegno di un'attività professionale che dà lavoro a decine e decine di persone. Non mi interessano le idee di questo, di quel bagnino, di questo o quello stabilimento balneare. Mi interessa che in Italia si possa fare liberamente impresa e che le idee del passato non vengano processate. A una spiaggia io chiedo tranquillità, serenità, un buon servizio. Se il gestore abbia questa o quest'altra idea, penso che non debba interessare né alla procura, né alla politica, né a nessun altro. Io sul comodino di casa mia mi hanno regalato una bellissima testa del duce in legno e tutto. Ce l'ho, chiarissimo, la tengo. Non è un problema. Non me ne vergogno. Niente, non ci schiodiamo da qui, signori, non ci schiodiamo da qui. Alle 6:32 minuti siamo qui, signori, questo è 24 mattino. Siamo in diretta e ci sono due personaggi che sono la fotografia dell'Italia, secondo me. Due persone oggi dai giornali. Uno è uno straordinario professore, ovviamente straordinario è un eufemismo, che insegna diritto alle superiori. Guardate che c'è anche una storia straordinaria nei fatti. Diritto insegna, infatti lui i diritti propri li conosceva molto bene. 1500 giorni di malattia, insegna a Lodi, diritto insegna. L'hanno pizzicato, fa l'avvocato a Vibo Valentia. L'Italia di oggi è veramente un grande circo, è questo. È un po' sì, caro Vincenzino, un po' sì. Ormai la conduzione 4.0 è pronta, eh? Diritto insegna, pensate, no educazione fisica. Diritto. Sono cose veramente da quarto mondo. Vabbè, adesso, Vincenzo, non esagerare, adesso è un quarto mondo. Boh, adesso sistemiamo tutto, però. Comunque, non è l'unico personaggio che mi ha colpito. Mi ha colpito anche un altro personaggio. Signori, questo non ha un nome, non ha un cognome. È un tifoso della Juve che ha comprato la maglietta di Bonucci dell'anno prossimo. Con tanto di numero, E mo sta un po' incazzato. È come dire. E ha scritto la Juve e ha chiesto un risarcimento da 105 euro. Tra l'altro appoggiato dai nostri amici del Codacons, chiara manifestazione del maligno, come c'è, cioè, il Codacons, chiara manifestazione del maligno. Non c'è l'avvocato Rienzi oggi, no? Come mi sono divertito. Vabbè, signore, chiede 105 euro. Tra l'altro 105 euro, sti cazzi, costa la maglia della Juve. Se vuole questo tifoso, gli mandiamo la maglia di Bonucci del Milan, gliela facciamo anche autografare, eh? Proprio bella lì firmata, te la tieni lì bella in camera, la maglia di Bonucci col numero nuovo, eh? Vabbè, già mi manderanno degli insulti i tifosi della Juve, state calmi. Vi ricordo, signori, che oh, non mi dite più le temperature, eccolo qua, Dammam ci stanno ascoltando, siamo in Giordania, 23 gradi ad Amman. Mentre ci ascolta anche il mitico medico da Khartoum in Sudan, 29 gradi, a noi se non ci ascoltano dall'estero non ci piace, eh? E la nostra Chiara da Perth, c'è sempre, 17 gradi, nuvoloso, è inverno in Australia, ricordate. A Modena 19 gradi, a Rovigo 21 gradi, a Rimini 20 gradi, c'è il sole. In tangenziale ovest 23 gradi e mezzo, Luca è sempre preciso, eh? 23 gradi a Monza. Oggi Lorenzo niente paesini. Casale Marittimo, guarda un po' lì, Casale Marittimo, dove si trova? Casale Marittimo, 19 gradi. Casale Marittimo, Pisa. Vabbè, signori! Basta con la solita radio. Eccoci noi qua. Noi la Saluzzi la vogliamo vivere più social. Ecco che con la nuova stagione inizia a casa di Paola. A no, casa di Paola. Andremo tutti quanti a casa di Paola. Buongiorno. A casa di Paola stamattina tutte spalancate per tenere un po' d'aria fresca, almeno al mattino, sì. In questa Roma che si prepara a riaccogliere Caronte. Senti, Caronte, senti la sigla, c'è anche Ehi Birichino. Possiamo rimboccarle le copertine. Buonanotte, no. Paolina. Con la nuova stagione cambia il tuo modo. Intanto posso ringraziare questo signore straordinario, sì, ma certo, che ha prodotto le sigle più belle di tutta la mia vita. Tutto il mondo, in tutto il mondo, è chiaro. No. Vabbè, lo ringrazio per questo anno di piacevolezza. Certo. Insieme. C'è la buongiorno, nostra Paola Lino. Saluzzi. Buongiorno, buongiorno. Signori, 105 euro la maglia di Bonucci. Ma vogliamo parlare di questo? Ma ma smettila, su. Gliela mandiamo fino. Bellissima. Sento, la maglia del Milan. Ma sì, dai. I tifosi sono così. Cioè, sì, uno... un tifoso. Deluso. Un tifoso deluso. Esatto. Va bene. Esatto. Insieme alla nostra Paola Saluzzi c'è anche Luca Dini. Ma c'è lui. Buongiorno. Direttamente davanti, Ferre, che c'è qua. Caro Luca, come va? Tutto bene? Tutto bene. Tu le compravi le maglie a 105 euro? No, quella è la bancarella da 10 no, euro. Esatto. Il tarocco. No, un paio di volte per i miei figli devo dire sì, le ho anche comprate. Quelle dell'Inter. Quelle dell'Inter? Sì. Mi sembra giusto. Ognuno ha i propri problemi da affrontare, capisco. Siete meravigliosi. Capisco. Due ragazzi meravigliosi. Capisco, ricordate capisco. Quando le nonne cucinano i numeri, sì, come sulle no. maglie? E come no, certo. No, si prendeva, poi si prendeva un panno, si tagliava. Oh, l'otto era quello che dava un po' più di problemi. Sì. Perché farlo bello tondo, farlo bello tondo. Forbice, no? Quindi intanto venivi che queste cose un po' sghembe, però erano carini. Correvano con la maglietta. Erano con belle, sì. Come dire, è un calcio che fu, di qualche anno fa. Allora, dobbiamo aprire il Parlamento, signori. Allora ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Comunque la questione è molto semplice. Che fare di questo... Beh, l'hanno arrestato, eh. Adesso io ridevo di questo signore Alfredo Mercatante, insegnante di diritto, ripeto, a Lodi e avvocato. In realtà 1500 giorni di malattia per lombosciatalgia. Sai quei mal di schiena, proprio Paola, che non ti passano? Ma, dici, porcaccia la miseria anche oggi. Ma più che altro il concetto è gli hanno fatto una visita medica anche. Come no, per come dove no. fosse la, ma è chiaro. Magari. Il problema evidentemente è che probabilmente vedrà il processo c'era un medico, come dire, no? abbastanza compiacente, amico suo, che gli firmava. E questo però è un po' lo spaccato dell'Italia, al di là della vicenda che poi si vedrà, è un po' lo spaccato dell'Italia. Ma voi non sapete quanti hanno la legge 104, che è una legge sacrosanta nel mondo della scuola, e chiedono così il trasferimento al sud. In genere succede questo, no? Prendono la cattedra, vanno al nord, la legge 104, e hanno diritto a insegnare in Sicilia. C'è un professore in Sicilia straordinario, una volta l'ho invitato, l'ho intervistato, che fa proprio questo, va a controllare tutti e li denuncia tutti, no? Lui che è uno onesto, e li denuncia un eroe. Tutti. Un eroe, esatto. Caro Luca, io a questi, guarda, non riesco a pensare alla punizione, ma dura. Cioè, proprio è una cosa terrificante, cioè la trovo... Tipo insegnare... ci sono i piromani, ma questa gente qui non fa meno danni. Insegnare in estate in una scuola chiusa, tipo, ai banchi. Cioè, No, per me questi sono da galera proprio. No, ma è chiaro che... È la cosa drammatica, che troverà qualcuno che... Temo che non la vedrà mai la punizione reale. Non lo so, forse alcuni casi vengono presi e vengono anche utilizzati come immagine per colpire. Quindi... Per rispondere... Ma sai, purtroppo io da genitore ti posso dire che casi così diversi, in misura diversa, insomma. Sì, chiaro. Non eclatanti, di insegnanti spariti per intere stagioni. Oltretutto, come è diritto loro, comunicando all'ultimo momento il rinnovo della malattia, quindi senza la possibilità di avere un supplente, anche in insegnamenti importanti. Sì, ma è chiaro, ma i danni che fanno, ma è tutto partito tra l'altro dalla preside di Lodi, che dice da 1500 giorni non lo vedevo da anni, era diventata una barzelletta, non era diventata una cosa intoccabile, per cui sono partiti tutti i controlli per cercare di capire dove diavolo fosse finito. Scusa Lino, ma 1500 giorni sono praticamente 4 anni e mezzo. E come no? Ma faceva l'avvocato, tranquillamente, nel foro di Vibo Valenza, andavi lì in tribunale, a posto, faceva l'avvocato, cioè, capito? Soldi pubblici come professore, e intanto anche il privato faceva. Paola, che dobbiamo fare? Guarda, io non... Sì, in questi casi si dice c'è un'inchiesta, e si deve dire, giustamente, no? Dirà che cosa accada. Sì, forse questi casi vengono presi come esempio anche per altri, sì. Diciamo civetta anche per altri. Guardate che chi pensa di fare così fa male. Sappiate che dopo 1500 giorni se ne siamo accorti. Oggi voglio, se me lo permetti, tanto è persona che non c'è più, il mio professore di storia e filosofia del liceo classico, si chiamava Raffaele Buratta. E mi ricordo che veniva a scuola, povero caro, lui che era un fumatore accanito, con certe bronchiti. Ma con certe bronchiti, però era meraviglioso, delizioso, insomma, lo ricordo, a 35 anni di distanza ci sarebbe un motivo, perché non mollava mai. Era sempre invece vedi, Alfredo Mercatante, vabbè, ma adesso non vogliamo ergerlo, insomma, simbolo dell'Italia che non va, però è chiaro che oggi su tutti i giornali... Vabbè, no, ma adesso dispiace, adesso non è che l'Italia va male perché c'è questo signore, però no, invece va male perché c'è questo signore. E allora massacriamo Alfredo Mercatante, tutti contro questo signore, questo insegnante di diritto. Che meraviglia, un anno passato con due ragazzi straordinariamente delinquenti. Signori, però secondo me c'è un'altra vergogna, ne abbiamo parlato tante volte, è vero, è tutto legale, ma siamo arrivati a 502, forse anche 510 parlamentari che dall'inizio della legislatura hanno cambiato casacca. L'ultimo, ma voi lo sapete che anche il nostro mitico Maurizio Bianconi, no, secondo me non lo sa neanche Lorenzo Nespoli, che è di là. Forse del neanche lui lo sa. No, neanche Bianconi ha lasciato Direzione Italia. Lorenzo Nespoli in regia fa: ma no! Ma come? No, anche lui ha cambiato casacca. Tutti che cambiano casacca. Tu, Paola, che li intervisti, ma non li vedi proprio... Io ieri l'ho usato, sembrava senza rispetto, e invece oggi sui giornali c'è proprio la transumanza. Ma non li vedi queste mucche impazzite che passano da un partito all'altro, disorientate, attraversando campi perigliosi? Guardate l'immagine, Alessandro Milan e John Wayne. Con delle giacche e cravatte sfatte, lascio il gruppo, wow, e si trascinano, no? No, vabbè, allora tu ridi, ma senti la Boldrini, è presidente della Camera, Boldrini. Aspetta, la Boldrini, presidente della Camera, senti, su questa cosa. La situazione politica è molto fluida nel nostro paese. È fluida. Estremamente fluida. Molto. Ci sono gruppi che si sono divisi, ci sono stati gruppi che hanno perso alcuni deputati. Tutto questo fa parte delle dinamiche politiche e io non trovo disonorevole il fatto che ci possa essere che un parlamentare o più parlamentari da un gruppo che non esiste più vada in un altro gruppo. No, o da un forse, gruppo che no, esiste, no, per carità, non è disonorevole, non lo so se sia disonorevole o no. Cioè, se uno, due, tre, cinque, ma 500! E adesso stanno. Paola, sindrome del trasloco, insomma. Ah, sì, e adesso stanno iniziando i veri traslochi, eh? Cioè, adesso da qui alla fine della legislatura ne vedremo delle belle, sì, no? Sì, sì. Come il trono di spade. Sai. È meraviglioso. È fantastico. Gente. Gente che si aspetta agli angoli di transatlantico e si accoltella, cioè così la vedi più o meno. Più o meno così. E quando volano gli pterodattili, come stavano quei cosi, esatto, che volano, è interessante guardare. Cioè, ma la trovate una cosa normale? Per carità, è tutto secondo le leggi, eh? Tutto secondo le norme, non c'è il vincolo di mandato. Ma il concetto è proprio quello della norma, però. Nel momento in cui tutto è secondo norma, ti sei disposto che sia secondo norma. Quindi. No, ma certo, è chiaro. Una norma che ti fermi dentro un partito non corrisponderebbe più alla libertà di pensiero, alla libertà di azione, credo. Sì, certo, però. No, io dico solo che sotto un certo numero non bisognerebbe neanche comunicarlo, perché quando si scinde in due un gruppo da uno e poi se ne riforma uno da tre quarti. Sì. Chi se ne frega. No, sì, esatto, sì, uno si scinde da se stesso, ormai siamo a queste la cose, particella, la particella, esatto. Però il concetto è che è tutto a norma, ma un piccolo tradimento, come dire, del mandato popolare ci sarà, no? Se uno ha nominato sei lì per rappresentarmi, il concetto è questo, no? Sei appunto lì per rappresentarmi e io ho una determinata idea, tu quell'idea non la possiedi più. E ti sposti. Esatto. Vorrei a questo proposito leggere il comunicato dell'onorevole Maurizio Bianconi, che così ha comunicato di aver lasciato Direzione Italia, il partito di Fitto. Per non annoiare mi servo di una frase famosa del film La guerra dei bottoni: se lo sapevo non avrei venuto. Così. È un proverbio altrettanto famoso: le querce non fanno i limoni. Cazzo, dobbiamo fare le metafore di Bianconi adesso. La prendo ora. È grandiosa. Intelligenti pauca, cioè insomma, chi ci vuol poco per capire, insomma, chi capisce basta poco. Questo Bianconi, bisogna fare le metafore di Bianconi adesso, eh. Le querce non fanno i limoni. Vincentino, fai le metafore di Bianconi. Lo dobbiamo chiamare, le querce non fanno i limoni. Dobbiamo andare al traffico, un attimo, poi mi spiegate poi questa cosa delle querce che non fanno i limoni, che lo so anch'io che una quercia non fa un limone, ma che avrà voluto dire tra poco? Alessandro Milan, sei solo traffico e distintivo, traffico e distintivo. Traffico e distintivo. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta. Ciao Milan, ci deve dire a quel pagliaccio di Berlusconi, perché è pagliaccio, che Canale 5 non si vede più, che compri macchinari nuove, che non fa lo stronzo. Ciao Milan, ti saluto, ciao. Buongiorno Milan, sono Bubu Gentiloni e sono qui con il mio amico Padoan. Buongiorno Milan, sono Bubu Padoan, un saluto affettuoso. Attenzione Bubu, sta arrivando il Ranger Renzi, dobbiamo scappare. Alessa, sono sempre albanese italianizzato. A voi non vi incozza più a lavorare, non vi incozza più. La fatica pesante non vi va più. Vaglielo a dire a un italiano di 25 anni, 26 anni. Vieni a fare la giornata che si spacca il culo. La decisione di Pancia secondo me era una cazzata clamorosa, più grande di quelle che già ne ho fatte tante. E questo penso che sia il momento giusto per, tra virgolette, continuare e dargli e fargli l'ultimo miracolo della mia carriera, di fare una grande stagione con questa squadra. Signori, nell'Italia impazzita c'era anche l'ultima Cassanata, ci dovevamo attendere. Cioè, ma sapete che ha fatto Cassano, caro Luca? Sì. Si è presentato a Verona, ha firmato, e ieri ha convocato una conferenza stampa, appena arrivato ha detto basta, chiudo col calcio. Poi dopo tre ore si è chiuso col direttore sportivo, ha detto no, continua a giocare. Auguri al Verona, auguri, auguri al Verona, auguri al Verona. Vabbè, ma vedi, vedi. Il signore arrabbiato con Berlusconi? Sì, signore, qua la nostra segreteria telefonica è, come dire, un pozzo nero. No, però Bubu Gentiloni vince. Bubu Gentiloni, sì. Tra l'altro, no, Yogi e Bubu era notevole. Giusto per non parlare di transumanza, pare, racconta dei giornali, che Berlusconi abbia detto per carità basta venire da me. Cioè ha fermato tutti, ha detto non è il momento di far cadere il governo, fermate tutti quelli che vogliono tornare a Forza Italia. È un problema al Senato. Questo per dire come la situazione sia un po' delicata. Ma le querce fanno limoni o no? Non lo so, no, secondo questa, lui... Questa, guarda, ci ha lasciato un... Ci ha lasciato un po' di amaro in bocca, questa cosa. Mi spiace per Bianconi, però insomma l'aveva visto Fitto, cioè si vedeva che era una querce, insomma non... Ah, Fitto la quercia, attenzione, ci sta da qui di la quercia. No, le querce non fanno limoni. Il gruppo era quello di Fitto, era quello di Fitto. Corsaro, quello dell'insulto, sì, a Fiano. È vero, è vero, è vero. Ma te ne sei accorto dove andavi oppure no? Dai. Vabbè, adesso non per Corsaro, forse se ne... cioè dici che sei andato per Corsaro, non lo so. Non lo so, però insomma, appunto, le querce non fanno limoni. Le querce non fanno limoni. Direi che la frase più chiara di questa non c'è. Le querce, infatti, perché stiamo. È così chiara la dichiarazione dell'onorevole Bianconi: le querce non fanno limoni, punto. No, Paola, cosa c'è da aggiungere? È tutto chiaro al mondo. Ah, sentire, no? Bianconi al volo. Adesso chiamarlo, è entrato il gruppo. Il gruppo misto, è un gruppone. Facciamo limoni. Agrumi misti. Agrumi misti. Il gruppo. Voi ricordate il gelato misto buono? Ah, sì. Oggi sei in vena di... Cioè, ti ricordi i numeri attaccati, ricordi, cuciti sulla maglia? Sì, che a un certo punto ti davano il misto buono quando erano arrivati praticamente un po' alla fine tutte le, sì, varie, che è un po' come quando fanno il polpettone in mensa, ma è un po' come quando fanno il polpettone in scrivania. No, insomma, misto buono. Misto buono. Misto non buono. Era una considerazione politica, proprio pensavo al gelato, sarà il caldo. Era querce e limone. È chiaro, querce e limone. Comunque, a proposito, no, siamo partiti da questo insegnante. Guardate anche qui, ti racconto questa, cara Paola, oggi la troverai sul Messaggero, lo scandalo dell'ATAC, l'ultimo. Tu che, come va i mezzi pubblici a Roma? Lasciamo perdere. Dal becchino all'elettricista hanno trovato il doppio lavoro degli autisti, cioè autisti che parcheggiavano, non erano in servizio, e chi andava a fare l'elettricista, chi l'idraulico, chi il cassamortaro, insomma, altre cose, prendendosi intanto soldi pubblici e assenze ingiustificate. Cioè, ma dove vogliamo andare? Ma dove vogliamo andare? Non lo so, Alessandro. Ma dove vogliamo andare? Se uno non fosse armato di straordinario e strepitoso ottimismo, ci sarebbe di che essere pessimisti. Cioè, ma uno legge... Lo dico, ho detto che l'acqua calda è calda, però insomma, veramente. Ma ormai non ci salva più manco l'ottimismo di Paola Saluzzi. Non ci salverà più manco quello. Devo ricaricarlo. Devi ricaricarlo. In fretta. Pensa al tifoso della Juve che ha comprato la maglia di Bonucci. Secondo me ti torna il buon umore. Cioè, pensalo lì, tutto a scrivere. È terribile questo ragazzo, terribile. E nel suo caso non è che sia carico perché è fine luglio e ha iniziato a settembre. No, è carico sempre. No, ma questa cosa... Il nostro meraviglioso Alino, più che mai. Lo manda avanti un paio di giorni. Un paio di giorni pensava, ma guardate che io lo direi anche se fosse del Milan, cioè, perché poi la gente pensa... Cioè, mi fa ridere in generale. Allora, io devo dire che ho qui la copertina di Vanity Fair con una... Guarda, oggi mi sono superato, io seguo anche il tennis, ma oggi mi sono superato, caro Luca, perché ovviamente riconosco anch'io Serena Williams, so chi è, però mi sono superato. Indovina cosa ho detto a Lorenzo quando l'ho vista? Ho detto, ma perché era incinta? Cioè, no, ero l'unico al mondo forse a non sapere che Serena Williams oggi ritratta tutta ignuda e incintissima, direi inequivocabilmente incintona, molto incintissima. Serenona incintona Williams in copertina di Vanity Fair. Tu eri lì che dicevi, ma come mai che quest'anno non la vedo? Come mai non la vedo? Infatti dicevo, cacchio, è andata avanti Venus a Wimbledon mentre Serena ha avuto un po' di difficoltà. Aveva lasciato al giro. Aveva la lombocciata al giro. Era rimasta a fare le riunioni del condominio. E invece mi era incinta. E viene incinta e lo scopro così adesso. Così. Vabbè, chiamiamo anche per questo, dai. Però tutta ignuda su Vanity Fair. Allora, signore, avete le palette pronte? Da 0 a 10? Il nostro Dejan Cetnikovic è andato a beccare da Radio Rock il deputato Emanuele Fiano che canta. E aspetta che chiude. L'acqua d'enfo ne va. Beh. Tanto l'aria sa da cagnare. Ma poi. Ma senti. Che chiove. Oh. L'acqua d'enfo ne va. Dai. Tanto l'aria sa da cagnare. Ma vabbè, dai, no. Luca, Paola. Il della citazione di Pino Daniele: l'aria sa da cagnare. Questa legge sui vitalizi, il Movimento 5 Stelle dice che voi in realtà non volete farla. Sa da cagnare, cambierà, insomma, la farete. Dunque, la legge sui vitalizi ha una prima firma. No, che è quella di vabbè, piano, ma no, dai. Che ha cantato anche lui, tra l'altro. L'aria sa da cagnare, quindi. Ma sì, l'area sui vitalizi è stata cagnata, certamente. No, vabbè, dai, vabbè. Che voto gli diamo, Paola e Luca, in chiusura? Paola? 8. 8. Luca? Sì, 8, assolutamente. Vabbè, dai, tondo proprio. 8 tondo. Come l'8 sulla maglietta, no, quello tondo. Quella di Bonucci? Tondo, capito, cioè, voglio dire, ha fatto un acuto bello. No, bravo, bravissimo. Bravo, Daniele, bravo, infatti. Vi abbraccio, a mercoledì prossimo, ciao. Anquo Alessandro Mina e leggerai i giornali come uno che legge i giornali. E che tanki, skate. 24 mattino. Ci siamo, sono le 7:14 minuti, siamo qui in diretta sempre su Radio 24 per la rassegna stampa di 24 mattino. Eccoci allora, andiamo a vedere che cosa ci offrono i giornali, caro Peter Bescapè, forza! Dai Milan, che è quasi finita! Beh, adesso non esageriamo. Non esageriamo, siamo a mercoledì 19 luglio, intanto vediamo i titoli, le aperture, il sole 24 ore sulle borse, corsa ai listing, record in Asia, boom negli Stati Uniti. Questa è l'apertura di prima pagina. Poi ogni quotidiano ha un'apertura diversa. Per il Corriere della Sera ancora i migranti e il tema immigrazione. L'affare profughi, portarli in Italia, frutta 400 milioni. È una stima del Corriere della Sera affidata a Federico Fubini. Per Repubblica invece c'è un'intervista al capo della polizia Gabrielli che parla del G8 di Genova di anni fa, per tentare di chiudere una pagina dolorosa per l'Italia. Il G8 una catastrofe, ma non ci sarà più un'altra Genova. Così il capo della polizia che dice a Bolzaneto fu tortura. Ora chiudiamo quella ferita per guardare avanti. L'apertura invece della stampa, governo, duello Gentiloni-Alfano. Mentre per il Messaggero sbarchi, le ONG non si fermano. Per il giornale è Libero la politica, psicodramma Alfano, così titola il giornale, mentre Libero Alfano ritrova il quid e torna da Berlusconi. Il Fatto Quotidiano invece torna sulla vicenda del caso Consip, altre carte depositate a Roma e anticipate oggi dal Fatto Quotidiano. Romeo, ho conosciuto Tiziano, guardo Matteo in TV e vedo lui. Sono nuove intercettazioni di colloqui con l'imprenditore russo e si parla di reciproca conoscenza sempre negata, questo nelle intercettazioni che creeranno e nuove polemiche sul caso Consip. L'apertura invece del Manifesto, la trampata su Obamacare e sull'Iran, il presidente americano incassa una doppia sconfitta. La verità, infine, il modello Emilia-Romagna, bus gratis per gli immigrati, prezzo triplicato ai disabili. Questa è una storia che viene dall'Emilia-Romagna. Ma a proposito di storie, ce n'è una terribile che troverete su tutti i giornali, da cui voglio partire, quella del coro di Ratisbona. E quindi siamo in Germania, perché la diocesi di Ratisbona ha concluso uno studio e i titoli che trovate sui giornali dopo questa inchiesta sull'istituzione che è stata diretta per anni dal fratello dell'ex Papa, di Papa Ratzinger, parla di 547 vittime di violenza, minori abusati, 67 dei quali sessualmente, nel coro di Ratisbona. E ovviamente tutti i giornali, è uno scandalo mondiale, non solo in Germania. Abusato 200 volte a 11 anni, il mio lager a Ratisbona nel coro delle voci bianche, e Georg Ratzinger sapeva. Questo è il titolo di Repubblica. Tonia Mastrobuoni racconta di questi abusi fisici, intanto, coperchi di pianoforte sbattuti con violenza sulle dita dei bambini, le loro testoline colpite con pugni o pesanti anelli, ragazzini allergici costretti a ingurgitare pietanze proibite finché non soffocavano, o a mangiare il proprio vomito se rimettevano il rancio da caserma, adolescenti presi per un orecchio per tener ferma la testa, assestare meglio schiaffi brutali, altri bambini picchiati selvaggiamente senza motivo con bastoni e mazze, o sottoposti ogni mattina a docce bollenti o fredde, a seconda dell'umore dei precettori, e soprattutto stupri ripetuti per anni e anni, violenze e molestie sessuali inflitte prevalentemente a bambini tra i 6 e gli 11 anni. Al liceo le violenze proseguivano, ma meno frequenti rispetto alle classi elementari. Racconta per esempio Alexander Probst, vittima di abusi sessuali nel coro della storia millenaria, quando aveva 11 anni, per ben 200 volte, come denunciò 7 anni fa, contribuendo tra l'altro all'avvio dell'inchiesta. Viene raggiunto da Repubblica e dice chiaro e tondo: Georg Ratzinger sapeva e ha fatto finta di niente. Il fratello del Papa emerito Benedetto è stato direttore del coro per 30 anni, dal 1964 al 1994, tra l'altro gli anni più atroci secondo l'indagine. E ovviamente l'accusa c'è su tutti i giornali nei confronti del fratello del Papa emerito, così come i terribili racconti degli abusi, delle sevizie. Per la verità, Gian Guido Vecchi, a pagina 5 del Corriere della Sera, racconta un po' lo sfogo di Georg Ratzinger, che ormai peraltro ha 93 anni, ormai non vede quasi più, e che, questo è il virgolettato attribuito a lui, dice: all'inizio anch'io ho dato più volte degli schiaffi, anche se la coscienza poi mi rimordeva. Sono 7 anni che Monsignor Georg Ratzinger è braccato da questa vicenda. A gennaio ne ha compiuti 93, non ha mai lasciato Ratisbona, ma il fratello minore Joseph e tutta la sua famiglia, e appena può, scende a trovarlo a Roma, magari per festeggiare assieme la Pasqua, il compleanno. Quando nell'80 le punizioni corporali sono state proibite, ho provato un profondo sollievo. Anche questa frase di Georg Ratzinger. Solo lui sa quanto gli costò quell'ammissione, inizio 2010. Non negava che a quei tempi nelle scuole si usassero punizioni corporali. Anch'io ne ho subite da ragazzo. E non negò che gli fosse capitato di dare qualche tirata d'orecchi, così l'ha definita, o al massimo un po' di ceffoni, per cui chiedeva perdono. Allora funzionava così, del resto. Per raggiungere un livello musicale artistico superiore ci vogliono disciplina e rigore. Ma ovviamente di violenze sessuali o crimini pedofili non se ne parlava, non ne ho mai saputo nulla, ha sempre assicurato. L'avvocato Ulrich Weber ha ripetuto che Ratzinger ha distolto lo sguardo, comunque ha mancato di intervenire. Per 30 anni è stato direttore dei Passerotti del Duomo, il coro di voci bianche della cattedrale di Ratisbona, tra i più antichi, se non il più antico del mondo. E questa vicenda torna prepotentemente alla ribalta dopo questa indagine proprio della diocesi di Ratisbona. Oh, invece troverete una classifica, beh, mio modo di vedere, bizzarra, perché dai, io non lo so, la nostra amica Chiara che ci segue tutti i giorni da Perth forse non sa che il Sun ha messo Perth come una delle 10 città più pericolose del mondo. Tra queste ha messo anche Napoli. Tra queste ha messo Caracas, e vi assicuro, io sono stato qualche anno fa, effettivamente Caracas è una città pericolosissima. Mogadiscio, e posso immaginarlo, nella Somalia, che è un non paese. Grozny, diciamo, anche questa la posso capire. Kiev, non so, Manila, posso immaginare, Karachi in Pakistan, ma in questa classifica, in Honduras, Honduras è considerato il paese più violento al mondo, posso capire, San Luis negli Stati Uniti, non so perché, ma sarà una città pericolosa. Raqqa, beh, Raqqa in Siria, e Napoli. Ma come Napoli? Cioè, adesso voglio dire, ma, va bene tutto, ma come si fa a mettere una classifica Caracas, Raqqa, Manila, Karachi, Napoli? A Napoli si sono ovviamente molto arrabbiati. Io queste classifiche le trovo abbastanza idiote, nel senso, puoi vivere probabilmente in un quartiere straordinario di Perth. Io sono stato a Perth, la percezione del pericolo mi sembrava vicina come può essere vicina Saturno in questo momento. Però evidentemente ci saranno delle zone di Perth che sono frequentate da dei cattivoni. Però certo, Raqqa, come si fa? Io Raqqa penso di non resistere, mi dico, ti catapultano 30 secondi a Raqqa, probabilmente in 30 secondi mi fanno fuori, non lo so, sono anche biondo, occhi azzurri, quindi non è che passo molto inosservato lì. Ma ecco, questa classifica mi ha portato a leggere ciò che scrive Fausto Biloslavo, inviato del Giornale, da Enissa in Siria, e racconta proprio storie di persone che fuggono da Raqqa. Ecco che fine hanno fatto le italiane sposate ai jihadisti, le nostre connazionali, nei racconti delle mogli degli altri mujahideen dell'ISIS. Una di loro è stata uccisa, lapidata per adulterio. Questi sono racconti, ovviamente, testimonianze di altre donne fuggite da Raqqa, o meglio, non fuggite, fatte prigioniere, perché erano compagne o mogli dei capi ISIS. E loro, in questo campo profughi che Fausto Biloslavo ha visitato in Siria, raccontano che alcune italiane, come l'italiana Sonia Khediri, partita per la Siria da Treviso, ha sposato l'emiro tunisino Abu Hamza, sarebbe stata lapidata a morte in quanto usciva di nascosto di notte, la polizia religiosa l'ha seguita e scoperta. Le hanno detto di confessare il peccato, che sarebbe stata perdonata. Lei ha ammesso la relazione extraconiugale, è stata portata vicino alla moschea Al-Nur e lapidata a morte. Ecco, questo è uno dei racconti fatti da Raqqa. Ora, nella stessa classifica con Napoli, no? Cioè, non so se ci rendiamo conto, però leggete. In realtà, Le vedove nere del califfo, il reportage di Fausto Biloslavo sul Giornale, ecco che fine hanno fatto le italiane sposate ai jihadisti. Oh, signori, ora vi devo raccontare due storie italiane, molto italiane. Da una parte ci sono 700.000 aspiranti precari che hanno fatto click per cercare un posto nella scuola, aspiranti precari. Per la precisione, lo scrive Eugenio Bruno in prima pagina del Sole 24 Ore, quanti sono queste persone? Sono 650.000 aspiranti prof che hanno preso d'assalto, mandandoli in tilt, il sito del Ministero dell'Istruzione per aggiornare le graduatorie di istituto e candidarsi a una supplenza breve. Cioè 650.000 persone che cercano un posto, una supplenza anche breve. Dall'altro, la storia di Alfredo Mercatante, 55 anni, arrestato ieri dopo aver accumulato 1533 giorni di assenza per malattia in un istituto superiore di Lodi, dove insegna diritto alla cattedra. 1533 giorni di malattia, anzi 825 sono i giorni di malattia, però accumulati aggiungendo 728 per congedo fa questo risultato: 1533 giorni di assenza. L'hanno pizzicato e faceva tranquillamente l'avvocato a Vibo Valentia, avendo la cattedra a Lodi. un mal di schiena di 7 anni. Così il prof faceva l'avvocato, Giusy Fasano, pagina 17 del Corriere della Sera. Mentre gli perquisivano lo studio, a marzo, lui si è sentito in dovere di spiegare: faccio presente che non vado tutti i giorni in tribunale e ogni volta che devo andare fuori casa la mia consorte mi fa punture di Toradol e Voltaren per il mal di schiena. E poi ha aggiunto: ovviamente, avendo famiglia a San Costantino Calabro, non avrei nessuno a Lodi che possa darmi assistenza. Inoltre non posso stare molte ore in piedi, pertanto sarebbe difficile esercitare il servizio scolastico. Insomma, stava male Alfredo Mercatante, 55 anni, una doppia professione almeno sulla carta. Da una parte insegnante di diritto a Codogno, dall'altra avvocato a tempo piuttosto pieno nel foro di competenza Vibo Valentia. Stava male, dicevamo. O almeno così giurava lui, così certificava il suo medico, anche lui di San Costantino Calabro, paesino dove l'avvocato è professore a casa e famiglia. Risultato? Tra il 2011 e il 2017 ha collezionato 1533 giorni di assenza da scuola, 825 per malattia, 728 per congedo. Ieri i finanzieri gli hanno consegnato un provvedimento di arresti domiciliari per truffa aggravata ai danni dello Stato. La preside, Antonia Rizzi, arrivata nel 2014 a Codogno, dice: io l'ho visto 3-4 volte in tutti questi anni, al consiglio docenti di inizio anno, una volta allo scrutinio, mai in classe. Non potevo accettare che continuasse a succedere quello che era più di un'intuizione e non era tollerabile. A questo professore è dedicato anche il caffè di Massimo Gramellini, in prima pagina del Corriere della Sera. Colpa d'Alfredo. Alfredo Mercatante, avvocato di grido in Calabria, insegnante di ruolo in Lombardia. Non è solo l'ennesimo furbetto che lavora a tempo pieno nel privato, intanto percepisce uno stipendio pubblico. È anche un ex sindaco di sinistra, presidente e sostenitore di associazioni antimafia. Insomma, un italiano completo, furbo e moralista, intransigente sui massimi sistemi, accomodante su quelli minimi quando coincidono con i suoi comodi. Uno di quei cavalieri dell'ideale che si sentono a tal punto dalla parte giusta da non rendersi neanche conto di fare la cosa sbagliata. Per 5 anni questo campione della legalità ha continuato a esercitare la professione forense in giro per i tribunali, mentre ogni mattina le scolaresche di Codogno e Lodi aspettavano di vederlo in cattedra per la lezione di diritto. L'avvocato era purtroppo impossibilitato a raggiungerli da una serie di disavventure, il padre gravemente malato e una rara, interminabile forma di lomboscialgia che un amico medico gli riscontrava di continuo senza trovare cura più efficace di riposo assoluto a cui l'avvocato si rassegnava controvoglia limitandosi a esercitarlo nello studio legale. A scuola si presentava solo alle feste comandate per garantirsi la copertura burocratica di una truffa che a lui, ed è questo il punto centrale di tutta la faccenda, non sarà sembrata tale. Se si potesse calare una sonda nella sua coscienza a 2 strati, si farebbero scoperte interessanti. O forse non si troverebbe niente. Massimo Gramellini in prima del Corriere. Ma a proposito di articoli, quello che mi fa più sore della giornata, l'articolo da Mani sul volante, è proprio il caso di dirlo perché si parla di autisti ATAC e dunque siamo a Roma. Lorenzo De Cicco racconta sul Messaggero la storia, l'ultimo scandalo ATAC. E cioè gli autisti che sono assenti o in malattia o in congedo intanto fanno un altro lavoro. Un autista di Acilia, parcheggiato il bus in deposito, passa il pomeriggio a lavorare in una ditta di traslochi. Un altro conducente famoso nei garage di Grotta Rossa come il Cassamortaro, perché arrotonda lo stipendio aiutando a chiamata un'impresa di pompe funebri. Poi c'è il piastrellista che ha rifatto il bagno a diversi colleghi. L'elettricista, anche lui generoso negli sconti con gli altri addetti della metro. Tutti dipendenti dell'ATAC. Tutti con doppio lavoro. Per questo la più grande partecipata dei trasporti pubblici avrebbe avviato una serie di indagini interne per capire quanti dei suoi 11.771 dipendenti gonfino i guadagni con attività esterne mai dichiarate all'ufficio del personale. Di più, il sospetto è che in tanti svolgano il secondo impiego anche durante l'orario di servizio pagato dal Comune di Roma e quindi dai cittadini di Roma. ma dove vogliamo andare? Dico, ma dove vogliamo andare? A proposito di autobus, ma dove vogliamo andare? Contro un muro, forse? Eccolo qua, dal becchino all'elettricista, il doppio lavoro degli autisti ATAC. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan. Ma che cazzo è Alessandro Milan? Boh. Questa è una delle migliori, devo dire. Vedi che Chiara da Perth ci scrive e dice: qua non succede nulla a Perth, è molto più pericolosa a Milano. Forse ci sono gli squali, Chiara, non lo so. Per questo è stata messa tra le 10 città più pericolose al mondo insieme a Raqqa, a Caracas, a una città dell'Honduras che non ricordo, e a Napoli. Questa è la classifica del Sun. Non so, mi dicono leggi le motivazioni, ma no, ma queste classifiche sono talmente cretine che mi ferma la classifica, devo anche leggere le motivazioni, ma dai, su, ma per favore, dai. Perth come Raqqa. Sì. Va bene, allora veniamo all'attualità politica. Il tema migrazioni e il tema migranti tiene ancora banco, anche perché c'è la questione, che abbiamo spiegato varie volte, slegatissima, non c'entra nulla dello Ius Soli, che non c'entra nulla con gli sbarchi, con le migrazioni, ma c'entra nel senso che in questo momento in cui il tema immigrazione, il tema migranti è talmente caldo, si è pensato bene che il tema Ius Soli, cioè la cittadinanza, chi è qui, era bene rinviarlo, perché sarebbe successo un po' il putiferio. Comunque, sullo Ius Soli vediamo tra poco. C'è però un'interessante cifra che il Corriere della Sera mette in prima pagina su, con uno studio di Federico Fubini, una stima che in realtà deriva da una serie di interviste condotte nei mesi scorsi dai medici per i diritti umani, MEDU, un'agenzia indipendente sostenuta dall'Unione Europea, della Open Society Foundation, che ha chiesto a 1000 rifugiati quanto avessero versato, quanto avessero pagato ai trafficanti. Da queste stime, da questi pagamenti accertati, da queste testimonianze, si è creato un grafico con le cifre che variano, chi parte dal Mali, chi parte dal Chad, dal Sudan, dall'Eritrea, ovviamente tutti poi confluiscono verso il Niger, verso nord la Libia e verso poi le coste, l'Europa. Ebbene, la stima media, il costo medio dall'Africa occidentale è attorno agli $825 dall'origine, dalla partenza fino al barcone, poi c'è il barcone, e dall'Africa orientale si spende di più, in media $3,750 a persona fino ai barconi, e poi c'è il costo dei barconi. Tutto questo ha fatto ha prodotto una cifra, il traffico di uomini verso l'Italia, un business da 400 milioni di euro l'anno. L'assenza di canale d'ingresso legale ha favorito una nuova economia criminale. È il dossier di Federico Fubini, lo trovate a pagina 6 del Corriere della Sera. Dicevamo dello Ius Soli, il dibattito è politico. Ieri c'è stato un vertice a sorpresa, come titolo al Corriere, tra Gentiloni e Alfano. Alfano si è messo di traverso sullo Ius Soli, Gentiloni l'ha convocato, hanno parlato. Pare che Gentiloni abbia detto: guarda che comunque a settembre si ripresenta questa stessa legge, che è sacrosanta, il governo ha semplicemente deciso di non mettere la fiducia, ma la legge c'è. E su questo Alfano ha detto: la legge così non è votabile per il nostro partito. Insomma, sono, come dire, schermaglie politiche. Come dall'altra parte, al di là delle schermaglie, ci sono le transumanze. Io ieri ho usato questo termine dicendo: beh, un po' irrispettoso verso, visto che non sono certo bestie, sono esseri umani, i nostri amati parlamentari. Però oggi il termine transumanza è utilizzato da uno storico, quindi Francesco Perfetti, che in una pagina del Giorno racconta proprio il valzer a palazzo. Questo è il grande movimento politico a cui stiamo assistendo e a cui assisteremo moltissimo nei prossimi mesi fino alla fine della legislatura, quella della transumanza. Vizio antico dei Volta Gabbana. Questo è il titolo dell'analisi storica di Francesco Perfetti, che è uno storico d'altronde, da De Pretis alla Prima Repubblica, i 1000 volti del trasformismo di casa nostra. Scrive il professor Perfetti, è iniziata la stagione della transumanza politica, lui ha la bontà di mettere transumanza tra virgolette, della migrazione, cioè da un partito a un altro in vista della prossima scadenza elettorale. In realtà il fenomeno non è nuovo, ma oggi è diventato, per così dire, di massa e si svolge alla luce del sole, non più solo nelle ovattate stanze della politica e degli intrighi di potere. La crisi del PD, la fragilità delle ipotesi di policentristi, la ricomparsa di Berlusconi hanno trasformato la tradizionale vocazione italica alle giravolte politiche da fenomeno individuale a fenomeno collettivo. Ed effettivamente c'è talmente un via vai di politici che, raccontano i giornali, Berlusconi ordinò, leggo a pagina 5 del Fatto Quotidiano, Berlusconi ordinò fermate l'esodo o cade l'esecutivo e non è il momento giusto. Cioè Berlusconi dice basta rientri in Forza Italia, se entrano tutti salta il banco, salta il governo, salta la maggioranza, ma non è il piano che vuole Berlusconi perché non vuole andare alle elezioni subito, ha bisogno di un po' di tempo. E dunque nell'analisi interessante di Fabrizio D'Esposito, pagina 5 del Fatto Quotidiano, c'è questo ordine di Berlusconi, va bene, cioè che vengano a me, ma con calma, non tutti e subito, non tutti e subito, altrimenti salta il banco. E va bene, in tutto questo, a proposito di Forza Italia, c'è una notizia che riguarda Marcello Dell'Utri, fondatore di Publitalia, ex senatore di Forza Italia, sta scontando appena 7 anni per associazione esterna alla mafia e che, concorso esterno in associazione mafiosa, è in condizioni di salute talmente gravi che c'è stata una nuova perizia medica, racconta Giuseppe Guastella sul Corriere della Sera, pagina 11, Dell'Utri fa un passo verso la scarcerazione perché è in condizioni molto gravi. Segnalo, per carità i paragoni non vanno mai fatti, ma segnalo, ce ne siamo occupati in questa trasmissione, ho intervistato la moglie per il quotidiano La Verità, segnalo, lo dico per la terza volta, che Dottore Meloni, indipendentista sardo, è morto dopo aver detto morirò in carcere facendo lo sciopero della fame che ha fatto per 63 giorni senza che nessuno abbia battuto ciglio e alla fine è morto 10 giorni fa. No, per dire, non voglio parlare di figli e figliastri, ma voglio parlare invece con Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno. Guarda, ma colgo la palla al balzo, sì, perché ti segnalo le conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea, Corte di Giustizia UE, che trovi oggi nella prima pagina dei miei tributi, perché egli, che è praticamente l'accusa, diciamo così, per farci capire, ha detto che il nostro sistema della prescrizione non va bene. Dobbiamo calcolare la prescrizione in altro modo. Leggi Giovanni Negri sulla prima pagina di oggi di Norme e Tributi tutte le critiche che si sono appuntate appunto sul nostro sistema della prescrizione. Così vedi che leggo saggiamente gli argomenti, l'argomento che tu mi proponi, che come al solito parte da questioni però di carcerati, penale, eccetera, eccetera. Questo io vedo che hai subodoro, anche oggi. Subodoro un augurio in qualche modo, va bene. ma invece, guarda, passo avanti serafico per ricordarti che oggi con il Sole 24 Ore trovi anche il focus che è dedicato agli sconti fiscali del fisco. Conti del fisco per le imprese, quindi ad esempio l'assegnazione agevolata dei beni ai soci, il superammortamento, sono stati riassunti appunto in questo agile focus che trovi oggi con il Sole 24 Ore. So che è un po' qui Radio Fisco, magari tu sarai meno coinvolto, però ti assicuro molti nostri lettori invece saranno lieti di potersi giovare di questo prodotto. Così come speriamo che gli ascoltatori siano lieti di sabato di giovarsi di una intera trasmissione che mi vedrà. Ah, che si intitola Il Serpente Corallo, forse. Ma forse l'hai sentito dire, caro. Ma che ora va in onda? Ma facciamo un po' alle 9 del mattino. Alle 9 del mattino. Perché noi, signori, siamo gente che si sveglia con calma, a parte deve farsi insultare da te in diretta, ma invece in altre giornate. A partire giornate. Da sabato, signori. Tutti sulla sabati. Radio più bella del mondo, Radio 24, signori. Sì, sì, è proprio così, la radio anche più incosciente del mondo. Con si Mauro Meazza, dire. Signori. Va bene, ma invece torniamo al Sole 24 Ore di oggi, perché ti segnalo, e anzi la stavo leggendo, poi mi hai disturbato con questa sì. telefonata, l'inchiesta di Claudio Gatti sulle origini di Trump, cioè che faceva Trump prima di fare presidente, come ha cominciato a soprattutto essere... conosceva dei bei dei personaggi... Dei personaggi cristallini, insomma, cristallini. Di quelli come quelli che usi tu per farmi precedere talvolta. No, per dirti, ecco, però leggi, è una pagina appunto da lettura, direi, non solo da meditazione, che trovi oggi tra le primissime del Sole 24 Ore. Ti voglio dire che si sta già lavorando a una ipotesi di sgravi contributivi per gli under 35, lo scopo naturalmente è quello di favorire l'occupazione. Sono per adesso delle valutazioni di tipo tecnico, ma intanto la proposta prende corpo, si vedrà probabilmente nella prossima legge di bilancio. E poi, anche se non è martedì, perché oggi mi pare che non sia martedì, no. Oggi è ecco mercoledì. Però c'è lo stesso una sentenza interessante di condominio, perché se tu vendi la tua casuccia, caro Alessandro, ma taci sul fatto che ci saranno dei lavori straordinari in condominio, non va bene. E la Cassazione dice, ma che fai? Fai il furbetto? No. Allora, questa vendita qua non va bene. Lo trovi naturalmente nelle pagine di Norme e Tributi che tu leggerai. Ma direi anche scrupolosamente, doviziosamente e impetuosamente. Oh, molto bene. E allora, visto che ti vedo preparato, già hai citato questo boom di richieste per le supplenze di cui parliamo in prima pagina, ne parla Eugenio Bruno, 650.000 che cercano supplenze brevi, questo direi invece te lo consiglio come articolo da meditazione. E tutto ciò premesso, caro Alessandro, traffico! Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta... Ciao Alessandro Milan, un cognome da 7 coppe dei campioni, altro che Serie B. Va bene, e questo ricordiamolo sempre. Devo andare all'apertura di Repubblica, perché oggi Carlo Bonini fa una lunga intervista, 2 pagine, al capo della polizia Franco Gabrielli. Un'intervista molto interessante, perché riapre una pagina del passato, il G8 di Genova, la morte di Carlo Giuliani, la vicenda della Diaz... diciamo la riapre per cercare di chiuderla, ecco, questo è l'intento del prefetto Gabrielli intervistato da Carlo Bonini, ma sono pagine molto intense. Il G8 di Genova fu una catastrofe, questo è il titolo del capo della polizia. Un'infinità di persone subirono violenze che hanno segnato le loro vite, in questi 16 anni non si è riflettuta a sufficienza e chiedere scusa a posteriori non è bastato, dice Gabrielli. Sono a pagina 2 di Repubblica. Da capo della polizia la sola strada che posso percorrere è dichiarare senza ipocrisie cosa penso di ciò che è accaduto nel luglio 2001 a Genova. E lo posso dire perché sono libero. Spesso nella vita ci vuole fortuna e la mia fortuna di poliziotto è che al G8 di Genova non c'ero. Da dirigente Digos sarei dovuto essere lì. E dico di più, sarei molto probabilmente finito nel cortile della scuola Diaz, ma non andò così. Lucigos stabilì che io rimanessi a Roma per lavorare al dispositivo di sicurezza. E da uomo libero dico, dovendo dare un giudizio lapidario, che a impedire quella che lei definiva la costruzione della memoria condivisa è stata la rappresentazione abnorme e strumentale di quanto è accaduto. Le faccio 2 esempi. È falso che nell'accertamento della verità giudiziaria sui fatti di Genova abbia influito una magistratura ideologizzata. Della gestione pubblica dico semplicemente fu una catastrofe. E per una somma di fattori. Innanzitutto per la scelta sciagurata da parte del Dipartimento di Pubblica e Sicurezza di esautorare la struttura locale, la Questura di Genova, dalla gestione dell'ordine pubblico. Quindi per la scelta infelice della città che per struttura urbanistica rendeva tutto complicato. E da ultimo perché si scommise sulla capacità dei disobbedienti di Casarini e Agnoletto di poter in qualche modo governare e garantire per l'intera piazza. Capacità che dimostrano purtroppo di non avere. Insomma, la dico in una battuta, a Genova saltò tutto. E saltò tutto da subito, fin dalla scelta esiziale dell'irruzione alla Diaz. Lì si ritenne sciaguratamente, con la logica del pattuglione, che il contrappeso alla devastazione di quei giorni potesse essere un significativo numero di arresti, illudendosi per giunta che un'irruzione di quel genere, con quelle modalità, avrebbe garantito di acquisire prove per processare le responsabilità dei disordini in piazza. Peccato che il codice di procedura penale avrebbe reso quell'operazione, ancorché non fosse finita come finita, carta straccia. Insomma, il capo della polizia poi parla anche dell'allora capo della polizia De Gennaro, fa una lunga premessa, dice: non ho nessuna difficoltà a parlare di lui, anche se ci lega un antico rapporto personale. La premessa non è una clausola di stile, ma semplicemente dico che è complicato e rischia di suonare supponente dire quello che qualcun altro avrebbe dovuto fare. Però lo dico, io nel caso fossi stato De Gennaro mi sarei dimesso. Per il bene della polizia, perché ci sono momenti in cui è giusto che il vertice compia un gesto necessario a restituire la necessaria fiducia. Insomma, parla di tante cose, continua poi a parlare della polizia, di quello che è successo in maniera più dettagliata in questa lunghissima intervista di Carlo Bonini, il capo della polizia Franco Gabrielli, sul quotidiano La Repubblica, parla di Genova. Invece un'altra apertura che è un'esclusiva, il Fatto Quotidiano, torna sulla questione Consip, perché Marco Lillo pubblica nuove intercettazioni con altre carte depositate a Roma. In una conversazione con Carlo Russo, l'imprenditore Romeo parla di Tiziano Renzi, papà di Matteo. È molto simile al figlio, è il figlio moltiplicato per 10, anche se dalle carte depositate non è chiaro se dica o meno di averlo incontrato. Però nuove intercettazioni, nuove carte pubblicate a pagina 2 del Fatto Quotidiano e certamente nuove polemiche che ci saranno in arrivo. C'è da dire che le nuove polemiche ci sono anche in America. In America è successo che Trump ha da scontare qualche problemuccio. Voleva fare tabula rasa dell'Obamacare, il sistema messo in piedi per la sanità dal predecessore Barack Obama. Il risultato è un fallimento, nel senso che non ci sono i numeri. Alcuni senatori repubblicani si sono sfilati. Tre senatrici, per la verità, Shelley Moore Capito del West Virginia, Lisa Murkowski dell'Alaska e Susan Collins del Maine, hanno fatto perdere, hanno tolto il proprio appoggio a questo tentativo di abbattere l'Obamacare, e quindi il tormento dei repubblicani intrappolati nell'Obamacare. Riforma saltata, Trump furioso, questo è il resoconto di pagina 2 e 3 del Corriere della Sera. Ed è un tema che in America ovviamente fa molto discutere politicamente. C'è un altro tema invece che finisce sui giornali e che fa discutere e viene dall'Arabia Saudita, tanto per rimanere in tema di notizie dall'estero. La Stampa dà molto risalto, giustamente a mio modo di vedere, a questa che è stata definita la rivolta della minigonna. La faccio vedere anche in diretta sulla mia pagina Facebook, il buon Lorenzo Nespoli mi sta riprendendo in questo momento. C'è una ragazza che è apparsa in Arabia Saudita, una modella con un nome falso, che si è fatta immortalare mentre andava in giro in minigonna all'interno del forte di Ushaykir, in un abbigliamento che sarebbe assolutamente tollerato e accettabile nelle nostre città, nella nostra cultura occidentale, ma che è assolutamente considerato una provocazione in Arabia Saudita. Per sfidare il regime si è fatta filmare proprio così, in abiti occidentali. È stata già arrestata secondo alcune versioni non confermate, ma è una forte battaglia per i diritti delle donne, la libertà in quei paesi, in questo caso l'Arabia Saudita, dove queste libertà faticano davvero ad affermarsi. La trovate con l'articolo di Francesca Paci in prima pagina del quotidiano La Stampa. Coraggio, caro tifoso, che ti ho citato anche prima, caro tifoso della Juve, che hai comprato la maglia di Bonucci, ma quella sbagliata. Perché al posto del bianco adesso c'è il rosso. Vabbè, sono cose che capitano. Comunque lui ha preso la maglia di Bonucci della Juve dell'anno prossimo, ma quella maglia forse Bonucci la potrà scambiare a fine partita con Chiellini, non lo so, ma è rosso. Vabbè, questo tifoso della Juve ha chiesto un risarcimento da 105 euro alla Juve. Ridatemi 105 euro oppure ridatemi, non so, la foto di Dybala, la maglia di Dybala, che peraltro forse va al Barcellona. Quindi magari, vabbè, insomma, dai, vi sto prendendo in giro, tifosi della Juve. Sorridete anche voi, tanto si sa, vincerete il settimo scudetto consecutivo, ma la Champions League, quella mi sa di no. Comunque, su Libero c'è la carta costa, articolo più inutile scovato sui giornali. Melania Rizzoli racconta che secondo uno studio pubblicato da Evolutionary Psychological Science, donne e uomini reagiscono diversamente se scoprono su Facebook le corna del partner. Ma chi se ne frega!